Adesso ti racconto la vera storia di Mario Monaco. Un uomo, un mito, una leggenda. Quella notte Mario stava tornando a casa ubriaco come al solito. O forse era più ubriaco del solito. Sulla canna della bici reggeva a fatica una damigiana da 50 litri di rosso. Le strade di campagna in quegli anni erano messe ancora peggio che adesso. Mario, un po' per il peso, un po' per la strada, un po' per l'alcol, ad un certo punto sta per finire nel fosso. Ma con un ultimo lampo, con un ultimo sforzo sovrumano, prende la damigiana, la scaglia al di là del fosso, dove c'era un campo appena arato, e le grida: «Almanco tu, salvete!»